manco uno su 10. Sì, tutta questa prepotenza. Niente, stavo proprio, manca fare apposta guardando il sito vero della RTL SDR, quello originale praticamente, le nostre sono roba, come dire, sono cartocetti, ecco. Novità ci sono già. Ma niente, anche poco fa ho tentato la reinstallazione, nulla da fare, non accetta, anche se accetta Drive non dà nessun segnale, nessun tipo di segnale, nulla praticamente, della serie è morta, ho fatto anche procedure di praticamente di, siccome tutti i drive sono di norma certificati, le ho chiesto a Windows di ignorare la certificazione in modo da in ogni caso, a prescindere da quello che penso, di far passare il drive. L'ha fatto passare, ma niente, il programma non funziona. Il programma è i programmi, non è uno solo, ne ho almeno quattro già testati e funzionano perfettamente se le dici di andare sulla scheda audio. Non funzionano andando su questo RTL SDR, che comunque non è, da quello che sto leggendo sul sito americano, non è assolutamente originale, è cinese, insomma, di quelle solite cose da quattro sud. Non lo so, non ho sentito tutto il tuo discorso perché ho risposto alla telefonata veloce, ho sentito solo la seconda parte del discorso. E vabbè, tutto cinese ormai. Però quella lì con la mia cosa, con il mio computer, col portatile è partita. Mi dici il tuo portatile, il sistema operativo a Windows? Dovrebbe essere Windows 10. Ma mi interessa sapere se è professional oppure se un altro, se quello home. No, non è professional, sicuramente è quello home, perché io avevo quel computer quando l'ho preso, mi pare era Windows 7, e poi mi hanno mandato installazione direttamente loro, la Microsoft, e ho fatto direttamente, ma penso sia l'home. Anche questa che ho fatto io a Microsoft, tutto dal loro sito, licenziata e tutto, ma non... niente da fare. E comunque rimane strana la cosa, perché io ho anche le chiavette di altro tipo, però originali. Adesso ci piazzo quella. Ripeto, con la scheda audio funziona, quindi se tu le mandi qualche segnale lì da qualche interfaccia radio, ricevitore radio serio, lui ti fa vedere tutto, non c'è problema. È proprio il drive che non digerisce, non lo posso portare, e questo lo fa anche su un altro PC, siccome io sono pignolo, l'ho provato su altri due PC, il risultato è lo stesso, non è, quindi non... è una cosa veramente strana. Ci sono molti che hanno segnalato, ho visto sui forum eccetera, molti che funzionava, tra l'altro, e funzionava dopo di colpo con gli aggiornamenti evidentemente di Windows li ha bannati, quindi è veramente un mistero questo. Novità invece per l'altra cosa, c'è notizia, se sempre in attesa del dolce parto. No, c'è anche Claudio, cado un attimino in linea perché ho sentito un paio di schizzetti dell'amico Torre di Controllo. No, mi ha detto il direttore del coso, del centro, che entro i primissimi di coso di dicembre ci daranno la patente e poi devi farlo tramite il ministero, e questo mi rompe le scatole, devi perdere tempo quando poteva essere una cosa diretta. Non è così, perché ricordati che quello che stai prendendo non è una cosa, un documentino così, è una cosa che va poi a livello internazionale, capito? Il nominativo che viene dato ha validità in tutto il mondo, quindi le procedure devono essere molto attente, non tutto è come se fosse una nave, un aereo, tutto lì, per uso diverso, per uso amatoriale. Claudio, allora, stai digerendo ancora il cinghiale di ieri, scommetto? No, assolutamente, stanotte ore ricchietta delle cime di Rappa, capito? Chiamato Lino Banfi, ma la tua ricetta, quindi stanotte ricchietta della cime di Rappa. Buonasera a tutti. No, io invece ho sentito una portante per lo fare, Roberto. Non so se tu te ne sei accorto. Sopra Gianfranco. L'ho sentito anche io. Sembrava un disturbo. Pensavo che fosse lui, ma di qualche radio attaccata, tipo un rumore bibi, un signore così, di qualcosa di... tipo un'interferenza. Mi fa piacere che sia sotto comunque e non sopra. No, era sopra, già fra, tranquillo. Ma con la croce non ha la radio, sei qua. Via, sto provando con l'adattatore il 757 con l'MC50 perché non va bene. Ma vero un qualche difetto io in questa radio, non capisco cosa sia. Parte con un bel di potenza e poi si stabilizza. A prima tipo parte con un bel di potenza e poi si stabilizza. Mi era successo anche a me per pochi minuti e poi si abbassa. Sì, è chiara la voce, però è un po' granulosa, dai, è un po' gracchiante, non c'è niente a che vedere con le altre. Aspetta che regoliamo appena il microfono, forse è troppo alto. Guarda, l'ho regolato un pochino. Forse ce l'aveva troppo alto, così meglio va. Un po' meglio, ma non è, ti ripeto, va bene, chiara, però non c'ha niente a che vedere con tutte le altre che hai sentito. Ma stiamo parlando di Asia, non ha niente a che fare con la chiusura, anche se gli avvii un microfono buono, però quello che ho sempre detto, sono belle radio, ma sono nate, la Asia ha sempre curato la banda laterale, e l'FM, insomma, ma la M non l'ha mai curata. Nonostante la mia voce, nonostante un buon microfono, non è al top, capito? Diciamo con un microfono magari equalizzato si riesce magari a sopperire, però la cosa bella della chemo, tu prendi attacchi senza niente, funziona benissimo. Vai Giafra. Sì, io mi sto guardando, oramai mi sto facendo una cultura su questi giocattoli. Mi ritiro in buon ordine, sono sempre in ascolto, ma per come dice Claudio, che non è suo tra l'altro, lo dice il giudice, per deliberare il destino di questo affare. Ti sta facendo matare il cervello già. No, non è quello, è che oggetti così poco importanti, perché alla fine una cosa ridicola da 40 euro, se pensi che il mio radar aereo dell'Air Nav costa ben altre cifre e funziona subito. Sai, io ce l'ho sull'altro e su quello mio funziona, però a 27 mega senti già le splatter del coso lì dei ripetitori Monte Oro, sono ridicoli e non sono cose da poter usare per qualcosa di costruttivo, ecco. Sono giocattoli e vanno bene per chi vuole giocare, però se poi deve fare delle cose serie non capito, sono quello che sono, dei piccoli giocattoli e basta. Guarda, c'è Santa invece se va meglio. È già un grido. Un'altra tiritera. Non ho capito perché sul 140 va bene il 50. Mentre sul 400, sul 757 no. La modulazione non è bella. Mentre invece il 60 va bene qua. Sempre con l'adattatore. Questo è sempre lo IESU con l'MC60. Sì, questo è, non si te lo scatto, l'MC60 con 757 GX2. E come mai non va il 50 modificato, mentre nel Chemudo addirittura sembra anche meglio? Non lo so, mistero della fede, non lo so, evidentemente come Mickey Game, non lo so, come dice il trasmettitore è inferiore, quindi si sente questa gracchiatura. Come microfono, ma è sicuramente inferiore al 60, anche come capsule, non so, forse sono uguali. maestro, anch'io in cuffia non ho fatto questa differenza, mentre con 60 lo porta meglio. Sì, 60 va molto meglio, la voglia. E cosa vuoi che ti dica? Aspetta, lasciamo un attimo di bianco se vuole entrare qualcuno, su 10 avanti, chi vuole entrare, sono già fra a te il mic. Sì, ho detto già che mi allontanavo per fare altre cose, per fare la stessa cosa, cercare di capire un po' se c'è la speranza, ma non speranza al ministro, speranza per questa. Adesso ne ho installato un'altra, ne ho una, due, tre, quattro. Questa è una che funziona anche a manovella, vediamo un po'. Ok, dai, chiacchierate voi di partite, di altre cose, che io sono qua in ascolto a sventiare con questa cosa. E vabbè, quando vuoi entrare, entra sempre senza problemi. Vai Claudio. Tappa di Rosmetro. Ciao. Mi fa un po' lo sentirei anche tu questo, ma questo è l'R7 Alfa. Vedi? Quando parte la colla del ponte, fa un po' lo sentirei anche tu. Ciao Gianfra, ci sentiamo dopo. No, io non è che mi trattengo molto, c'ho gente. Ho già preparato i broccoli con le cime di rapa, stanotte facciamo orecchiette alla Lino Banfi. Io le mangio, vabbè, adesso sono dopo, non le mangio spesso, però le compravo già pronte, di quelle in busta, veramente buone, orecchiette alle cime di rapa. Tu invece le fai fresche? Fresche, le orecchiette io le compro di quelle pasta fresca e poi non ci vuole niente, roba a fare, prendi un broccoletto molto grande, le cime di rappa, le fai tutte a pezzettini, le salti in padella con aglio, prezzemolo e cipolla, olio d'oliva, aspetti che si cucinino bene, poi ci metti due alicette e mezzo, giri tutto e poi ci butti le orecchiette, ti lecchi le dita, una cazzata, ma non ti piace la cucina? No, io mangio già pronto, mio genero, lui è un artista, che la taglia, ci ha fatto la pasta fresca la sera, la notte, dice io che è pronto, e l'ho fatta adesso, e adesso portare, ho fatto la pasta. Voglio tutto so fare, dagli antipasti, i primi, i secondi, i contorni, tutto. L'unica cosa che avevo già, ho fatto questi ravioli con la salsa tonnata alla bottarga sopra, ma erano la fine del mondo, cazzo, la fine del mondo veramente. No, mi piace cucinare tantissimo, io diciamo che ho fatto il trasfertista e quando ero a Cagliari mi occupavo io della cucina, eravamo in quattro, grazie a Dio in un anno qualcuno ce n'è andato un qualche chilo in più, poi la carne non ne parliamo, tutti i tipi di sciugo, so fare tutti i tipi di carne, sia integrame che arrosto, è una cazzata. Mettere quattro bistecche sopra la graticola, ma non vuoi fare la carne la faccio con lo spezzatino, faccio l'agnello, faccio coniglio, faccio qualsiasi cosa integrale, hai capito? Lo spezzatino poi lo faccio sia al sugo, nella roccia, come tutto. Io da me, Giulio, mio cognato, lui è un artista lo stesso, i cenoni, il capodanno, la sorella è brava a cucinarlo, ma fa tutto lui, quando deve fare roba di pesce, poi tutte queste cose strane, lui con tutte le essenze, le demone boghi, di roba in mezzo, lui è veramente bravo. Però anche lui, come hai fatto tu, la trasfertista, quando la vigilia del fuoco di lì a Serenio ti deve arrangiare, poi la mamma, una grandissima cuoca, gli ha insegnato le cose elementari, poi piano piano si è appassionato, ma è bravo lui, qualunque cosa sa cucinare. Io ho le basi lo stesso a mia mamma, però ti ripeto, mi sono perfezionato, soprattutto quando ho fatto il trasfertista fuori, non è che mangiare deve mangiare, quindi mi sono perfezionato, e poi c'è proprio la passione, quando hai la passione non c'è niente da fare. Quindi confermato questo microfono 757, arrivando su 757 9+40, deve essere un po' generoso questo Smith, mentre invece sul 430 esce il 140 e mi arrivi 9 più 30 pieno, modulato quasi 35. E mai è regolato in diverso modo, perché anche la parata di 140 rispetto al 440 era diverso di regolazione, poi alla fine me li avevo fatti tutti regolari uguali, quando li avevo mandati su da Bianconi li avevo fatti tutti uguali, e anche come si chiama Fabrizio, questo tipo che ha fatto, l'ha regolato lui a manuale, sì, volte qualcuno lo regola, mentre lì c'è 7000 sono regolati, per avere un S9 devi avere non 300, ne devi avere 500 microvolt. Ehi, piace quanti volte la sta radio. Allora, guarda il segnale così, vediamo quant'è. Invece così quant'è? Superi con il picco quando fischi 9.30, 9.30 qualche cosa. Così come sono adesso, non è te, di 60 watt, mettiamo a 20 watt, così sono a 20 watt. No, non cambia niente, ma ho notato come hai detto tu, appena l'accendi tira 100 watt con la radio, fa pum, poi deve essere, si stabilizza, nel senso ci avrà qualche circuito, dice no, te lo limita e te lo fa andare una cinquantina più o meno. Non lo so, però quando picchio la portante c'è una vaffanda e poi torna indietro, non lo deve fare, una volta ristabilizzata non lo deve fare, vabbè. L'ho messo a 2,5, prima era 2. Io sono in cuffia, cazzo, bella radio. No, no, si sente benissimo, niente da dire. Se non me lo dicevi tu pensavo fosse un K. No, beh, il microfono c'è il 60, ma la radio è 757. No, no, sta uscendo alla grande. Veramente bella. Ok, e aspetta, vediamo se qualcuno vuole entrare. Avanti su 10. Aspetta che passo adesso con 140 l'MC50. Aspetta un attimo. Grazie. Buonasera. E buonasera lì. Andiamo. Che è? E noi l'antenna che avete da fare. Lo squadro ce l'abbiamo, Micra. Luca. Come? L'antenna. Ho capito. Questa antenna guarda che ne la scendi. Adesso vediamo se... Allora ti spiego, se la scendo l'antenna, io la smonto e me la pulisco tutta. Un giorno non basta per farlo. E poi bisogna tagliare quelle staffe lì, rifare i buchi e rimettere le staffe nuove, capito? Aspetta, riprova. Questo è l'MC50 col 140. Ciao Luca, buonasera, ben ascoltato. Vedi come va meglio qua su questa radio. No, questa è più fedele, bella. Anche l'altra andava bene, ma questa mi piace di più. Questo scherreggia forte. Manca il segnale. L'antenna è diversa qua. Qua c'è la cosa, la J-Poll. 35 li tocco con la J-Poll. Vai Lu, K-Za. Comunque qua ho preso la resistenza per rallentare la ventola. Qual è quella tipo piatta, rettangolare, quella lì? No, lunga, la resistenza. 100 ohm e 2 ampere. L'altra è 150 ohm, 2 ampere. Te la rallenta, l'hai vista? 2 watt. L'alimentatore. Il titolo al boss, 2 watt, ha detto, no, 2 ampere. No, 2 ampere. 2 watt. Ah, 2 watt. 2 watt, 2 ampere. No, non mi ha detto tu comunque, vabbè. Ma l'ha detto anche Giulio, lui l'aveva già fatto. Capito Fabio? Ma una è massiccia, eh. Adesso ti mando la foto, aspetta. Non ce l'ho messo 2 watt. Ricordati che cavolo tagliato devi effetto Joule si chiama, guarda, questi giorni se hai voglia dovrei iniziare a fare un po' di corso di elettrotecnica a ricardino in radio, inizio proprio da quelle cose lì, proprio cose elementari, però che serve un'analisi di uomo alle cadute di tensori, all'effetto Joule che ti crea una resistenza e quando passa il calore eccetera eccetera e via e rispondeva di avere cosa succede su quella resistenza, perché secondo quanto era accaduto in tensione non bastano, perché lì saranno 0,2 ampere. Sì, io mi sono tomato le foto, Fabri, guarda, una è più massiccia, l'altra è meno massiccia. Come ha detto Fabio, le resistenze si misurano in ohm e il watt è la potenza resistenza, e poi ci sono le tolleranze e del corso. Adesso io mi misuro quanti watt, quanto assorbe la ventola, così so più o meno, no. Quella a vederla non è due watt, quella mi sembra un mezzo watt, esagerando, quella piccolina. Io sinceramente non lo metterei. Non lo so, però qui faccio poi calcolti con quanto dissipa, anche perché a parte resistenze, diciamo per le giacchette diciamo resistori, noi le chiamiamo impropriamente resistenze, però sono resistori. Cazzo, guarda, facciamo due calcoli, lo vediamo, quanto. Allora tu devi misurare, per poter vedere la caduta di tensione, devi avere la corrente e devi avere il voltaggio. Quando c'è voltaggio e corrente puoi calcolare la caduta di tensione in base alla resistenza. Se no devi avere questi due valori, quanti volt stanno facendo e quanto assorbe la ventola. A quel punto puoi calcolare esattamente la resistenza per abbattere la corrente. Però in base a quanto abbatti poi si può fare il calcolo per vedere quanto stai dissipando, capito? Sì. Vabbè, io faccio la prova, guarda. La smoto, taglio. Anzi no, non c'è bisogno di tagliare, perché c'ho il tastino accendi e spegni nel coso, nell'alimentatore. E vediamo un po' cosa succede, dai, se no poi magari mi dai una dritta su da fare, dai. Magari se devi fare scuola a Riccardino, magari passo lì in frequenza, anche io e ascolto. E quando vuoi, intanto inizia dall'atto, la legge di Ohm, io voglio fare iniziare con tensioni correnti, resistenze, legge di Ohm, quelle così lì, lami, Kirti, serie parallelo, resistenze, tensioni, c'è cioè cose semplici, è proprio la parte elementare, se posso scendere nei particolari, più sopra avere un'infarinatura, che tanto è quello che chiedono alla patente. Ah, ho capito, va bene Fabri, va bene, andare, dai, così poi me le segno e me le studio. Sì, ma quattro formule semplici, quattro cose parlate semplicemente, si chiacchiera e può servire, pertanto sono quelle, poi Roberto l'ha dato da poco, vogliono che vi può dare qualche consiglio, meglio di me. Sì. Va bene, avanti Roberto. Okay, allora, cosa sta uscendo Fabri? Di che cosa? Con che radio sì? Con che input? C'è un po', sa, ma stai spingendo esagerato o che cosa? No. No, vabbè, io volevo sempre guardare, probabilmente invece non sto più troppo vicini, come sto uscendo? Alla grande, non problemi, perfetto Fabrizio, buonasera. Ciao, no, noi siamo più vicini, poi lui vuole sentire sempre la gente bassa, ma è normale. Sei 9,50, superi 9,50 qua. Questo è con le 15 watt, cioè, dai. 15 watt, gli altri sono di piccolo, sai che quando faccio quel giocatore ti faccio fare un bel po' di escursione alla radio di potenza, la faccio partire dal basso e poi la faccio sfogare in alto. Ehi, ecco la domanda al volo Fabri, di quella roba che ti ho chiesto io, hai avuto qualche ricerca, hai trovato qualcosa? Sì, ho guardato, se puoi ricordare, una ce l'ho in cosa, come si chiama, in garage qua a Sassari, ma quella che monta la tavola, ne ho un'altra che stavo riparando, infatti ho visto, e lì deve essere quasi finita, dovrei tirarla fuori e controllarla, però quello tra l'altro la pezza te la provi al limite, stile, non me lo ricordo, devo controllare, l'ho vista però, ce l'ho in garage, una, però alla fine forse io te la posso anche dare, mi se può funzionare, dovrei vedere i radialini, vedere un pochettino due cose, dovrebbe essere quasi pronta, se l'ho messa lì vuol dire che è finita, la dovrei mettere sul paletto e misurarla. No, sul teatro da quello lì, se è roba fattibile, se sono i radialini, le misure, non penso siano misure strane, si possono trovare l'alluminio, ma cos'è, alluminio pieno o tubo? No, che ce li ho, ce ne sono alcuni che sono in alluminio pieno, alcuni in acciaio, dipende davanti al cielo, no, c'è tutto, è la base, voglio dei supporti per mantenerla, ma era finita, mi ricordo, l'avevo messa lì, perché era solamente, avevo solo, ma la devo vedere, mi avevo messo l'alimentatore di antenna e provarla, adesso la vedo, dai. c'è tempo così la mettiamo su e vediamo se si riesce a eccitare il ponte di Monterasu, o se no bisogna cambiare le posizioni. Sì, sì, no, vediamo tutti qui, aspetta che passo qua. Beh Luca, c'è qualche donato qua sul 10? Vai Fabri tu. Riprendo. Stavo dicendo poi Luca, quando metti quella resistenza, io non ne sono, devi fare una prova, se non te la brucia. Hai che prova a appoggiarla alla parte, perché poi ti volevo dire, sono so così. In genere il resistente si mettono per abbattere delle correnti, ma basse correnti, perché qui non è proprio come la corrente di una ventola. Hai provato con la batteria 9 volte a vedere se ti dà fastidio? Se poi metti la resistenza, scalda la resistenza, non è... gli abbassa la tensione ma ti scalda la resistenza, non so cosa risolva, così buf. No, quello si chiama effetto Joule, si chiama, no? Che in parte che viene dissipato. Tu, praticamente, V vuole essere V uguale I per R, ok? V uguale I per R. Quindi dove V diciamo è, si dice, poi mettiamo V, ma comunque è il generatore, dove V è la tensione che tu stai dando, I è la corrente, quindi quanto assorbe, devi fare quella misura, R è la resistenza che tu gli metti. Quindi in base a questo circuito qua tu sei la corrente, in base a questo poi cambiando i valori riesci a capire la caduta di tensione che tu gli dai, mi capisci cosa ti voglio dire? Però questa caduta di tensione, se tu hai la ventola arriva a 13 volt, tu cosa gli fai? Il calcolo gli apporti a 9 volt, perché poi di meno credo che la bruci anche se non gira a un certo colore, a 9 volt, lì hai un effetto Joule, che quella resistenza deve essere bella grossa, mi capisci? Se non la sciogli. Beh, infatti quello che gli stavo dicendo io, stavo confondendo un po' di cose, cioè, quando stavo parlando di un assorbimento discreto, bisogna stare attenti, c'è una resistenza molto molto, per quello lì, facendo il calcolo, secondo me non assorberà meno di 500 mA quella roba lì. No, credo che siano 200 mA, cioè se faccio un calcolo, dovrebbe essere circa 200 mA, 150-200 mA, credo, vuol dire che sia una ventola. Non è poco, perché tu considera che tu in un circuito niente perdi, non si perde niente, in natura non perdi niente, quindi le correnti che circolano all'interno, quelle correnti rientrano sempre, se tu abbatti lo stai sviluppando in calore, lo sviluppi, e si chiama il cosiddetto effetto Joule, lo sviluppi in calore, quindi è meglio mettere un regolatore di tensione che è semplicissimo, no? Un M78 7809, con quello dovresti risolvere, con quello non è, lo metti da 1 A e non hai problemi, basta una fesseria lo fai con quel componente e così sei sicuro di non fare danno. Infatti, come dici tu, se io metto un transistor già 7808, la porta 8 volt, 9 volt, magari avrei quanto c'ha di coso, e sicuramente risolve il problema. Le resistenze, infatti, sono sempre stato contrario anche io, che scaldano, cosa fai? Sì, perché in un circuito servono per abbattere la... per fare una caduta di tensione, no? Poi quella caduta di tensione tu la fai, dipende da cosa devi alimentare. 200 mA non sono pochi in un circuito su 12 volt. Certo. Vediamo se è entrato Claudio. Cioè, Luca, ci sei ancora? Una domanda a Fabri, tu stai utilizzando la stella, l'antenna tua principale qua. Sì. Ma c'è una calata diretta o c'hai il relè coassiale, cioè con diversi cavi? No, la porto direttamente in stazione. Quella arriva direttamente, la pilota che c'è, quindi il capo, la punta dell'albero di Natale, quella lì è. Sì. C'è un bel anno, l'altro giorno sono passato, sembrava dalla parte delle industriali, questa antenna, poi ci ho pensato, tra l'altro, tanta un'antenna enorme, quella grossa enorme, la direttiva, quella lì perché banda è? Quella fa tutte le bande, quella è una dinamica, parto da 6 metri sino ai 40 metri, è una dinamica quella, capito? Quindi tu con un'antenna fai tutte le bande, è una full size su tutte le bande, solo la spaziatura ovviamente è fissa, quello che ho detto è una full size, io apro e tu immaginati che c'è un'antenna, un Ayagi, tu immagini che c'è un Ayagi che sì, no, la conosco. Quindi quante bande fai di lì? 5 bande. Io faccio 5 bande, io faccio i 6 metri e utilizzo solamente il riflettore, perché poi gli altri tutto passiva, ci sono gli elementi dentro, poi me l'ho autocostruito io per non comprarla. Poi fai i 10 metri, ed è una 4 elementi in 10 metri, poi fai una 12 metri, 4 elementi in 12, 4 elementi in 15, 4 elementi in 17, 4 elementi in 20, 3 elementi in 30 e 3 elementi in 40. Boh, non so quante bande sono. E quant'è le dimensioni reali di quell'antenna? Quella sarà a occhio almeno 12 metri. Il boom è 9 metri, i bracci sono circa, i tromboni, i più grandi sono circa 6 metri l'uno, sono circa il braccio circa 12 metri. Eh sì, bella. Infatti c'è una superficie al vento, cazzo, devi stare anche attenti. Mari, non sarai tipo la zona mia battuto dal vento, ma anche lì non si scherza. Però beh, che non ti ho ascoltato perché mio figlio che stava parlando sopra. Ho detto che di lì magari non ci avrai l'intensità di vento che può prendere dove sono io, ma anche di lì tocca il vento. Stavo dicendo, Robo, tutti al vento lì. L'antenna è a, sono 12 metri, un metro, sono a 12-13 metri di altezza con l'antenna, quello se prende il vento. Ecco se prende il vento, quando picchia il vento, picchia il vento, sono il cappotto, non penso che dopo picchi di meno o di più. Ma tu la butti giù quando ci sono quelle giornate di bufera? No, sempre in alto rimane. Non la abbassi? Oh. Poi è pesante, quanto pesava l'antenna? Un centinaio di chili? Moltissimo, perché con quelle canne sono tutte in fibra di vetro, non pesa moltissimo. Allora poi c'è quella, ci sono le antenne delle VDHF, tutte le antenne rotore, c'è un centinaio di chili, ci saranno. Forse anche di più col carrello, molto di più. Ma quella che mi ha detto a me, che mi ha fatto l'altro giorno, come si chiama, ha detto ce n'è una eventualmente, quella lì è molto pesante perché è tutto alluminio, quell'altra mi avevi cercato. Quella è probabile, sì, anche perché la sì, ma anche se te la trovo, te la faccio vedere. Adesso guardo, aspetta. Per il momento neanche a parlare, devi mettere un traliccio per montarsi con l'antenna, ma ho visto le dimensioni e dovrebbe essere molto pesante. Guarda. Ho trovato qualcosa subito, allora, Delta Loop, ecco qua, fai vedere, visita, non è molto grande, poi la Delta Loop fa, ma Marco ce l'ha avuta, quindi Marco lo sa, è eccezionale, così dico, infatti l'ho comprata per quello, perché la volevo montare come seconda antenna, ho trovato il traliccio, poi ho detto, ma montata, massima potenza 2 kW, impedenza, si vuole 1,1 su tutte le bande, adesso te la mano, la lunghezza totale, aspetta, 50 kg pesa, peso, lunghezza boom è 4,16 m, eppure è piccola come antenna, le canne già sono alte, perché le canne sono, fai vedere, comunque se c'è internet vai e metti Delta Loop, ecco antenne. Sì, la guardo, però me la immaginavo infatti che era un'antenna bella presa. Ne ho visto una, Fabrino, non so se la conosci, l'antagonista di quella 510, però è un'antenna tipo, cioè presente a pannello, tu fai conto, un rettangolo, un quadrato, messo con i vertici in alto, ed è un'antenna tipo le vecchie antenne che si trovavano nelle radiogalene, non so se le hai mai viste, tutte a volte, hanno il contorno perimetro con i vertici verso l'alto, e poi all'interno hanno tipo una filare all'interno, e ho visto le rese appena inferiore alla 510, però è molto più piccola. Boh, non è capito, non sto capendo, aspetta, sto facendo un filmato. Vediamo se è rientrato Claudio, attenzione Claudio, ci sei? Sì, sono qua, stavo ascoltando sui ponti. Niente di che, mi sono un po' distratto, sono qua, per Fabrizio anche per... nessun problema, va bene, niente, ok, io vabbè sto andando adesso col 140 MC50, lasciamo fisso qua, no, l'ho voluto provare sul 430, attenzione però, vabbè, che il 430 numero 2, non il 430 numero 1, quindi probabilmente a causa del filtro non senti quella modulazione chiara, capito? No, diciamo, questa è bellissima, niente da dire, ma anche le altre. Quella della Esu non è che era tanto piacevole, cioè 5 pulita, niente, però era un po' gracchiante, sembrava un po' strappata, anche se non era troppo. Beh, ma c'è per vero, la Esu 757 è un baracchino a sintonia continua. Vabbè, lascia aperto. Poi l'abbinamento suo è MD1B8, MD1C8, capito? Col processore inserito funziona bene, ma quando ne metti già questi microfoni amplificati così forti tende a gracchiare, capito? No, l'MC50 deve rimanere qua, no, non c'è problema. Assolutamente, c'è l'MC50 sul 140, l'MC60 sul 430 numero 1 e l'MC60 sul 430 numero 2, capito? Tutto qua, va bene. Fabrizio, dove è andato? Sono qua. Io stavo provando con l'adattatore il 50 al 757 della Iaesu, però sì, la modulazione va, funziona bene, ma non è bella come funziona col K, si sente questo gracchiato. Roberto non so come l'ha definita, comunque funziona, ma non funziona bene come funziona qua. Io un po' poco fa, stavo facendo altro, non potevo rispondere, però io lo stavo ascoltando e non era così male. Lo so, detto da te, mi conforta, ma sai Roberto che c'ha quella tattica della misurazione, della chiarezza, eccetera, capito, l'abituato a sentirmi così, con questo tipo di modulazione, ma anch'io in cuffie non è che mi sentivo male, però sentivo questa differenza, capito Fabrizio? No, ma rimane qua, il 50 è del 140, no? Non ci sono problemi, poi al 431 c'è il 60, al 432 c'è il 60, al 757 ne rimetto la Donis, capito? Era giusto una prova che stavo facendo tutto qua, vai Fabrizio. Sì. Vabbè, comunque non è male, è la verità. Poi io stavo ascoltando molto perché stavo facendo altro. Allora, aspetta, facendo un calcolo per cosa, come si chiama, per fare l'ottopalta, secondo me sono quelle resistenti. Io stasera proprio l'ora zero è moscio. Sono giornate, stamattina l'ocitavo arrivava 9, poi all'ora di pranzo arrivava 8, poi è iniziato arrivava 5, ora stasera non arrivi a nulla. Ma cosa c'ha quel ponte? Le cavità sono? Buona, le cavità io aspetta, vediamo quanto ce l'ho. Ma non è come arriva a fondo scala, non lo so. Ma Fabri, abbiamo la stessa posizione, no? Poi non so se tu stai ricevendo in verticale o con la direttiva, io ho l'antenna piccola e non ce l'ho più quella grande, no? Non metto più antennone, c'ho una X300, ma bassa, però li eccito tutti, anche l'R0 li eccito, ci ho anche parlato con Domenico, però ci sono giornate che muore completamente, arriva basso, altre giornate mi arriva 9, 8, 7, anche più di 9, a contusio io. Strano un po', perché più che altro per eccitarlo, strano, io è mai eccitato da fondo scala. Aspetta, vediamo se lo faccio in diretta, prova a eccitare a vedere se lo ricevo. Vedi? Mi arriva la corda del ponte, allora sono io, ho l'antenna troppo bassa. Non riesco a passare, cazzo, con 50 watt non passo, roba la matti. No, se ecciti tu, io lo ricevo, Santiago 8, quasi 9, dai, l'ampeggio al 9, quindi la ricezione c'è, evidentemente è la posizione che non riesco, con l'antenna così bassa non riesco a passare, però ci ho parlato con Domenico. Vabbè, l'importante è che ricevo, dai. Tanto non è che ci devo trasmettere sull'R0, io di solito sto sull'R7 alfa, sull'R1, sull'R2 alfa, se c'è gente. Va bene, caro Roberto, ti scrivo, aiuto, fra un po', che ore sono, le 7:30, fra un'ora e mezza inizia la Juventus, Che io. Vabbè, tu invece Lima riesci a citarlo da casa tua? Sì, sì. Ma come direttiva? Molto Lima, ci abbiamo il partecipato io ai televisori, che cavolo abbiamo? Mentre il coso, è quello di coso, l'R0 qua, il Monte Raso. E Lima cosa c'è Fabri? Cosa c'è? L'RU2 mi sembra. Non me lo ricordo, siamo attenti a mettere prima, adesso me lo ricordo, io con i punti non è che ci gioco molto, ma non sarei giocatori di punti. No, ma neanche io assolutamente, è giusto così, se sento qualcuno come l'altro giorno, che c'era Domenico, si stava sgolando, sono entrato, l'ho risporto, mi sentiva e basta, ma 5 minuti proprio poi non mi interessa, non ci vado sui punti, adesso mi quando arriva la licenza, la patente a Roberto, ci spostiamo con Gianfranco, ci facciamo una frequenza o a 5.25 si parla come prima oppure a 5.50, non lo so, adesso vediamo. Comunque qualcosa faremo, bisogna riattivarle un po' le VHF, Fabri, sono troppo morte, anche la diretta, io a volte sto tutto il giorno con la radio accesa a 5.25, certo che ci sia uno che dica buonasera, poi qualcuno ci lamenta, capito? Qualcuno ci lamenta, se sei in ascolto te lo dico, non ti lamentare che il primo assenteista sei tu, caro padrino. Ascolta, io oggi ho chiamato sul 525, e lì quando Roberto ha la pazienza è entrato lì, però 525 un po' si cattiva, e se ci sei tu c'è lui, poi entra ancora, alla fine la gente entra, io ho chiamato un po' di voi, quando c'è di fare un po' di chiacchiere più qualcuno entra. Come facevamo prima, ti ricordi, eravamo sempre a 525, no, adesso aspettiamo a Robby, poi lo battezziamo. No, ma mio padrino dice sempre, io lo ascolto, sempre lamentendi, si lamentuccio, non c'è mai nessuno, non c'è mai nessuno, e lui sta mesi e mesi che non entra in radio. Normale. È normale, no, Fabri? Per carità, non l'ho più sentito, una volta entrava qua ogni tanto a salutarci, il canale 10, adesso è sparito, vabbè. Sarà impegnato anche lui. Vai Robè, che c'è rimasto qua? Io, tu, Fabrizio e poi... Io. Poi, ciao Gianfra. No, io sempre sto facendo un test di memoria, sempre su WebPC. Niente, ti volevo dire, l'R1 qua arriva forte, l'R1 di Monte d'Imbara, con l'antenna normale. Il Monte Raso arriva fortissimo. E poi volevo chiedere a Fabrizio se sa dov'è l'altro ponte, che è un Alfa, se non ricordo male, un R3 credo, un R3 o un R3 Alfa, uno dei due, che però mi sembra condiviso italiani e francesi, perché sentono quelli della zona Ligure e quelli anche dalla parte, diciamo, francese, 20 miglia, quella zona là. No, il 433312, qual è quello lì? 25. Sì, perché stavo leggendo che ce n'è uno che è altissimo, a 2000 metri. Vuoi vedere questo qua, insomma, è quello che poi è connesso all'R0. Non lo so, guarda, io con i punti, la verità, io non dimentico la frequenza dei punti, perché li uso poco, a volte mi sembra che ce l'abbia stampato in testa, eppure non è che, a dire, non ricordo, ci vado io a fare la manutenzione, tutti i punti che noi usiamo, da Ittiri a compagnia cantante, vado io, mi porta a Walter come uno schiavo e mi fa lavorare, però mi dimentico io, dove eravamo, Monte dove, va bene, qua, qual è questo qua, capito, come gli altri mi vado io. Ma è vero che uso anche la frusta? Io sono sempre occupato, io andiamo, carichiamo, andiamo, e tariamo, facciamo, smonto, mi arrampico, e ogni volta, dice, ma qui dove siamo, qual è questo? No, aspetta, andiamo, se veniamo un'altra parte, un'altra volta, e qui dove siamo? Ogni volta mi credo, poi non sono smemorato, Gianfra, quello che mai hai detto tu è l'RU2 Alfa, mi sembra che sia quello lì, che arriva anche dalla Corsica, però dovrebbe essere che è linkato, boh, non lo so, perché io lo sento anche a 145 637.5. Quello dovrebbe essere un Alfa. Esatto, quello lì è sicuramente quello. No, l'R1 arriva a fondo scala, tutti arrivano a fondo scala, tranne l'R0 che a volte mi arriva 9, a volte non mi arriva per niente, capito? però tu ti ricordi che io ho l'antenna un metro da terra, due metri da terra, no? Non ho messo niente, no? Non sto pensando a fare quelle cose di cui magari con karma si fanno, capito? No, non è un problema. Ho montato questa, la Smart Tech, la G-Pole e basta, per il resto non ho fatto niente, assolutamente. Va bene. Ascolta, se stai facendo un test di memoria, guarda se me ne puoi fare anche uno a me, ok? Poi io già lo faccio io a Fabrizio. Io sono proprio, con la memoria è proprio andata, io così lasciamo offerta. Se io ho detto con tutte le cose che faccio, le cose, avessi memoria di alcune persone che io conosco, diventerei un libro molte volte. Ma non devo pensare a fare queste cose, non dico niente perché sembra che stia raccontando palle, perché ti fanno domande, buh, che ce lo dico, ma quel valore, ma quello che ha fatto il motore, sì, me lo ricordo, sembra che abbia fatto un altro, è proprio una questione di memoria, ma non male che c'è molte volte la rete e quindi ti direbbe, riprendi il filo e comunque c'è il Lucariello, la resistenza per andare intorno ai 9 volt e intorno ai 45 ohm allora pigliate la gamba da 100 mi sembrava un po' strano, è così a orecchio, perché il giorno che l'ha montata Giulio stavamo parlando appunto così, non di 100, 120, quanto l'ha presa. Se 0,2 ampere calcolerebbe circa così un avvento, se a 12 volt ci vuole 45 ampere per arrivare a 9 volt di tensione, e poi come cavolo l'ascolto, per vedere quanto calore dissipa, boh, la farà un po' col PC, però secondo me non basta, come io l'ho vista, quale sono un watt, un mezzo watt, mi sembra un watt è massimo quello che vede, e non basta, perché la corrente, i watt dissipati sono parecchi, l'effetto giallo è molto maggiore, secondo me la brucia, aspetta, provo a vedere una cosa, se vai, riprendi qua. No, io mi ricordo che l'avevo fatto sul proxy perché c'era la ventola molto, molto veloce e avevo chiesto delle informazioni ad Antonello Fugiaro e mi aveva dato una resistenza piccolina, gliel'avevo messa, ma grazie a Dio ce l'ho 7-8 anni l'alimentatore, così non mi ha mai creato problemi, capito? Però non è come quella che ha preso Luca, assolutamente. Infatti dovevo dare una mano io, nel senso che dovevo darle i valori io, poi mi sono dimenticato. Va bene, Robert, riprendi, dai. Sì, se non deve avere venuto a vento, la usi finché dura l'arrivatata. Poi lui ha praticamente c'è un switching di quelli cinesi, no? Quelli brutti, insomma, quelli che Fabrizio già riconosce anche tu. E l'ha messo dentro un case, capito? E gli ha fatto un bel lavoro perché l'ho visto, l'interruttore, accende e spegni, l'interruttore per la ventola, ma la ventola deve andare diretta, non con l'interruttore, la devi accendere tu quando l'alimentatore è caldo, e può essere anche troppo tardi, la ventola deve, la mia sta girando, si sente pochissimo, io la sento a lontananza, ma non è come quella sua, sembra un elicottero, capito? Ma ce l'ho tanti anni così, però deve essere diretta, non è che la devi accendere tu, gliel'ho detto, deve essere diretta, tu la lasci diretta, quando si accende l'alimentatore deve accendersi la ventola, deve andare leggera, tranquilla e dissipare il calore, non è che la devi accendere tu. Ma non è meglio un regolatore di tensione per fare quel lavoro lì? Ma il regolatore di tensione lo devi anche costruire. Ma ci vuole tutta una cosuccia, un complicato, se non fai prima a mettere invece di un regolatore ci metti proprio, vabbè, senti il regolatore di tensione come 78 in teoria fuccia, ora così può andare bene e la tieni fissa la corrente. Ma ce l'ho un sacco di anni, non mi ha mai creato problemi al prox. Lui invece c'ha l'interruttore, capito? L'accende lui, no, deve girare da sola la ventola. Infatti, deve girare da sola, sì. La peggiore delle ipotesi, si può mettere anche un circuitino che parte solamente quando arriva a una certa temperatura, e poi si può mettere anche delle resistenze variabili, si può mettere, che ne so, a 60 gradi, sono non lo so quanto conviene che resistono, mi hanno detto quanto resistono quei, metti che c'è a 50 gradi, a 50 gradi parte la ventola e poi puoi aumentare la ventola con una resistenza variabile che varia col calore, e quella praticamente si porta fino a 12 volt la ventola, e magari la fai partire, che ne so, da 8 volt ci arriva a 12, per avere la progressività più alta, c'è un foglio, si può fare. Sì, ma infatti si può fare, sì, non mi ricordo che Clara ha fatto, non me lo ricordo, però si può fare, certo che si può fare. Tipo il sistema che hanno le radio che si accende la ventola quando arriva alla temperatura del scaldare, ma non scaldano quegli alimentatori, lui l'ha fatto solo perché è rumorosa, capito Fabri, ma non scaldano, oui. Cosa scaldano, quando va in 12, neanche 13 volts, io ce l'ho a 13,8 con 3K collegati, l'altro invece sull'altro alimentatore, però non scalda, lui. Va bene, avanti Robin Hood. Ah, io voglio capire una cosa, lui stava utilizzando un alimentatore di computer, normalmente sono da 500 watt, per cui saranno teoricamente un minimo 35 ampere facendo il calcolo così a mente. Un baracchino, diciamo, con potenza normale che assorbe massimo 5 ampere, ma massimo, tu lo stai sfruttando a un decimo della potenza, un decimo dai, a un quinto, un sesto della potenza che ti può dare, per cui cosa può scaldare un alimentatore? Se lo stai sfruttando anziché da tenere 35 ampere ne stai chiedendo 5 di ampere, anche senza ventola, negavi tutto, non che non sia qualcosa costruita diciamo senza dissipatori e senza niente, diciamo di quelli tirati il collo, però se ti danno 500 watt e tu ne chiedi di watt 5, a voglia che viene di potenza. Non lo so Robert, non ti so rispondere in materia, però io dico sempre, se la ventola non messa vuol dire che ci vuole, a prescindere da quello che hai tu che è giustissimo, lo stai sfruttando al minimo, ma ti ripeto, io lavoro adesso con questa radio sta lavorando con 5, 10, 10, 11 ampere, 11 ampere sta lavorando, ma è un 60 ampere. Se io schiaccio la portante a tutte e tre le radio, no? Contemporaneamente, e tengo qualche secondo.